strada. Ho preso quasi esclusivamente come traccia i diari di Kierkegaard. Kierkegaard stamattina già si è accennato nelle opere pseudonime, l'ha detto anche il padre Tillette più volte. Kierkegaard spesso scrive di non identificarsi con gli pseudonimi e dice: quando citano le opere pseudonime non mettano il mio nome, per favore mettete il nome dello pseudonimo. Questo certo crea una difficoltà nell'interpretazione di Kierkegaard, e quindi per avvicinarmi a questo problema ho voluto scavalcare questa duplicità, questa difficoltà, e attraverso il diario tentare di ricostruire e di avvicinare il più possibile il pensiero autentico di Kierkegaard. Pensiero che lui dice che ha esposto in forma diretta, l'altra è la comunicazione indiretta. La comunicazione diretta è nei diari e nelle opere edificanti. Quindi ho scelto questa strada, la comunicazione diretta, dove Kierkegaard esprime, senza appunto mettere delle mediazioni, il suo pensiero. Altro punto, io tratto del paradosso come oggetto della fede, quindi è il paradosso religioso. Il paradosso religioso, quindi il paradosso all'interno di quello che Kierkegaard nella postilla chiamerà la religiosità, la religione B. Quindi è il paradosso rivelato, il paradosso religioso, questo per non appunto confondere i vari piani. Ecco, dicevo al professor Melchiorre che dove lui ha finito, io da lì, si può dire, riparto. Sono quindi piani diversi. Vorrei partire da una citazione che Kierkegaard scrisse molto giovane, aveva 24-25 anni, e che emette già in modo evidentissimo la posizione kierkegaardiana di rottura non solo con l'ambito accademico e quindi hegeliano e con la sua stessa formazione, ma vedremo, insomma, come vedremo più avanti, con la stessa filosofia in genere. Dice questa citazione: il cristianesimo si rifiuta di trattare con la filosofia, benché questa voglia dividere con esso il bottino. Non vuole che il re di Sodoma possa vantarsi di aver arricchito Abramo. Quindi qui già la distinzione è ben netta tra filosofia da una parte e religione dall'altra, tra il re di Sodoma ed Abramo. La maggior parte del testo saranno citazioni dal diario, io non ripeterò ogni volta naturalmente il nome di Kierkegaard. La venuta di Cristo è e resterà sempre un paradosso. Il fatto cioè che il Figlio di Dio si è fatto uomo, ponendo così l'infinita differenza qualitativa di Cristo da ogni uomo, è il supremo paradosso metafisico e religioso. Kierkegaard, fin dai primi diari, pone esplicitamente una irriducibile duplicità fra l'uomo e Dio, fra metafisica e religione, fra filosofia e paradosso, fra ciò che è proprio della ragione e ciò che è proprio della fede. Fra questi due momenti non c'è mediazione alcuna, ma, dice Kierkegaard, essenzialmente eterogeneità. Scrive: tutta la confusione dei tempi moderni, che si ramifica nella logica, nella metafisica e nella dommatica e in tutto il nostro modo di vivere, ovvero la confusione consiste nell'aver abolito l'abisso immenso della differenza qualitativa fra l'uomo e Dio. E se l'accusa sembra principalmente rivolta contro la mediazione hegeliana, la divina e idolatrata mediazione, dice Kierkegaard, che fa e ha fatto miracoli e trasforma un uomo in speculazione ed esorcizza il cristianesimo, tuttavia l'accusa non è, a me sembra, come comunemente si pensa, rivolta soltanto all'hegelismo o in generale alla filosofia moderna. È la metafisica stessa per Kierkegaard ad essere messa sotto esame. La metafisica cerca infatti, egli scrive, la compiutezza eterna, perché la metafisica è, mentre il medio dell'esistenza è il divenire. Il segreto del cristianesimo è proprio in questo invertire la situazione, poiché la difficoltà non è di capire la dottrina di Cristo, ma di capire Lui, e la persona di Cristo è il paradosso e il segno di contraddizione che sbarra il passo a tutta la speculazione. Il cristianesimo, afferma Kierkegaard, è l'antitesi della speculazione, la sua contraddizione assoluta. La difficoltà del cristianesimo non è nel comprenderlo, ma nel divenire cristiani. Filosofia e cristianesimo, quindi, in quanto tale, non possono andare insieme. Non si lasciano mai conciliare, perché, dice Kierkegaard, io devo mantenere una delle cose più essenziali del cristianesimo, vale a dire la redenzione. Essa necessariamente deve essere estesa a tutto l'uomo, o io dovrei supporre le sue qualità morali difettose e la sua conoscenza invece intatta. A questo modo posso bensì ammettere la possibilità di una filosofia dopo il cristianesimo o dopo che l'uomo è diventato cristiano, ma questa filosofia sarebbe allora cristiana. Il rapporto non sarebbe più tra una semplice filosofia e il cristianesimo, ma fra cristianesimo e conoscenza cristiana. E fra i cosiddetti filosofi cristiani, Kierkegaard annovera anzitutto Agostino. Questo può sembrare strano, tanto più che viene da questa matrice luterana, accusandolo di aver confuso il concetto della fede e di averla così riportata alla determinazione pagana della filosofia greca. Per i greci, infatti, la fede, scrive Kierkegaard, è un concetto che appartiene alla sfera dell'intellettualità, mentre dal punto di vista cristiano la fede abita nell'esistenziale. Di qui l'affermazione perentoria: prima bisogna credere e poi comprendere, poiché la fede esprime un rapporto di personalità a personalità. Kierkegaard dirà espressamente: la fede è sopra la ragione. Ripete questo: la fede è sopra la ragione, la fede è contro la ragione, sia nei diari, lo ripete spesso, sia nelle opere edificanti, quindi in tutta la comunicazione diretta. Quindi la comunicazione che esce col suo nome, Kierkegaard è fermissimo in questa posizione. Perciò, scrive, non può essere dimostrata, fondata, compresa. E sottolinea queste tre parole: dimostrata, non può, la verità cristiana. Poiché l'elemento originale del paradosso è proprio che esso manca di continuità con la ragione. Fra ragione e fede non c'è mediazione, ma frattura, rischio, salto. E Kierkegaard parlerà di salto, salto assoluto, salto intensivo, salto qualitativo, ha varie determinazioni. Senza rischio, scrive, non c'è fede. La fede è precisamente la contraddizione fra la passione infinita dell'interiorità e l'incertezza oggettiva. Fra la verità rivelata e la verità della ragione umana non c'è infatti un passaggio semplice, ma un salto qualitativo. Una, appunto stamattina pure è stato ricordato, metabasis eis allogenos, ossia un salto che taglia corto a tutta una filza di ragionamenti e determina qualcosa di qualitativamente nuovo, appunto un allogenos. È quindi il capovolgimento del rapporto che troviamo nel pensiero greco fra pistis e episteme, perché umanamente parlando, come anche il paganesimo credeva, la episteme è più alta della pistis, ma piacque a Dio di rendere stolta la sapienza di questo mondo e di capovolgere la situazione. Anche qui, dice Kierkegaard, c'è la possibilità dello scandalo, e di fare della fede la cosa più alta. La fede è infatti la certezza che non si dà nessun'altra certezza. Perciò fede e ragione si rapportano fra loro in senso inverso. Dove c'è l'una, non c'è l'altra. Quando la ragione ha penetrato completamente tutto e tutti, allora la fede è completamente sparita. Ed è a questo punto, dice Kierkegaard, che pressappoco ci troviamo. Dappertutto ragione. Invece di innamoramento incondizionato, matrimonio di ragione. Invece di obbedienza incondizionata, obbedienza per forza di ragionamento. Invece di fede, sapere per ragioni. Invece di fiducia, garanzie. Invece di rischio, probabilità, calcolo prudente. È l'intelligenza che ci ha sedotti e ha capovolto il punto di vista del cristianesimo, ponendo l'ette et proprio dell'ottimismo pagano e della mediazione al posto della disgiunzione assoluta dell'aut aute cristiano. Cristo è venuto per dividere, aut aute. Nel Nuovo Testamento tutto è messo in gioco, cielo, inferno, tutto in gioco, fino a odiare il padre, la madre, i propri figli, aut aute. Il rapporto a Dio è per Kierkegaard un rapporto di contrasto e per questo è riconoscibile in modo negativo. In questo senso, egli può affermare che la metafisica ha cacciato la teologia, finendo per servire il cristianesimo con surrogati, così che Dio è stato degradato e sommerso nell'abiezione della relatività e della teleologia finita. Fin dai primi diari, tuttavia, Kierkegaard si pone il problema della misura in cui bisogna tenere conto della ragione e si chiede in quale misura bisogna tenere la ragione come uno scrupolo per la fede? In quale misura essa è peccato? Qui c'è il luteranesimo sotto. In quale misura un accordo armonico tra fede e ragione è a sua volta oggetto di fede? D'altra parte, osserva, l'intelligenza, la riflessione sono certamente anche un dono di Dio. Cosa si deve fare di essa? Come decidere quando non la si deve usare? Questo è bellissimo in Kierkegaard. In fondo l'apprezzamento della ragione, ma per dire non quando la si deve usare, ma quando non la si deve usare. Ed è precisamente questo uso negativo della ragione, ecco, vorrei insistere solo su questo punto, questo uso negativo della ragione che Kierkegaard rivendica all'interno stesso della riflessione e che io credo con questo si spezzi veramente l'accusa sia di razionalismo che di fideismo, che tutte e due sono state rivolte a Kierkegaard da parti opposte. Cioè, precisa nella postilla, un individuo per il fatto che abbandona la ragione per la fede e crede contro ragione, non deve per questo far poco conto della ragione, perché una ragione più alta è anch'essa, mi sembra, ragione. L'uomo perciò deve servirsi della sua riflessione in timore e tremore, nella convinzione che anche se fosse in grado di trasferire in forma di concetto tutto il contenuto della fede, non seguirebbe da ciò che si è compresa la fede, perché la fede è e resterà sempre contro la ragione. Possiamo dire quindi che la riflessione di cui parla Kierkegaard è quel pensiero essenziale, che è un andare in profondità nello spirito. È lì che, scrive Kierkegaard, l'egoità si deve frantumare se si vuole ottenere in realtà il rapporto a Dio. Questo io, questo singolo tanto esaltato, ma per Kierkegaard questo io deve frantumarsi per mettersi in rapporto a Dio. Prima deve fondarsi in Dio e poi è quella che egli chiamerà la riflessione pia o riflessione santificata. È strano questi termini, Dice, io spero di poter mostrare con l'aiuto di Dio che la riflessione pia può attingere ancor più i nodi che una riflessione superficiale ha così a lungo allentati. È quindi la lotta della riflessione contro la riflessione. E soltanto quando, scrive Kierkegaard, l'intelligenza si metterà contro se stessa, l'interiorità della fede afferrerà il paradosso. È la lotta fra la riflessione e la semplicità armata della riflessione. Il compito non è di comprendere il cristianesimo, ma di comprendere che non lo si può comprendere, che non si può e non si deve comprendere. Il rischio assoluto per l'uomo è perciò di arrischiare non solo tutto nell'esistenza, ma di arrischiare nello stesso tempo il suo pensiero e osare di credere contro la ragione. C'è qui, dice Kierkegaard, un pathos assoluto che è più eminente della riflessione più eminente, una forma di riflessione doppia capace appunto di pensare il negativo. In questo senso, dirà Kierkegaard, il suo compito puramente ideale è quello di introdurre il cristianesimo tale e quale nella riflessione. Ma proprio questo significa inchiodare le categorie cristiane in modo che nessun dubbio, nessuna riflessione possano riuscire a imbrigliarle. A questo modo le categorie cristiane sono rese inaccessibili alla riflessione. Non resta più che una scelta. Vuoi credere, sì o no? È quello che Kierkegaard chiama il martirio della riflessione, o ancora la crocifissione della nostra ragione, o la crocifissione dell'intelligenza. Ritorna varie volte questa immagine. Il martirio, cioè, di credere contro la ragione. Il pericolo di morte di trovarsi dove l'acqua ha 70.000 piedi di profondità e di trovare Dio soltanto là. Là dove la ragione dispera, c'è già la fede per rendere la disperazione veramente decisiva. Così che il movimento della fede non diventa un semplice scambio all'interno del mercato della ragione. Ma credere contro la ragione, ecco il martirio. Cominciare ad avere la ragione un po' dalla propria parte, ecco la tentazione, ecco il regresso. In uno degli ultimi testi del diario, Kierkegaard scrive: «La mia vita, come tutto nella sfera a cui appartengo e per cui io lavoro, è la sfera del paradosso. Il positivo è riconoscibile dal negativo, però questo negativo è il segno del positivo, è una primitività». La tesi kierkegaardiana è molto netta fin dall'inizio. Ogni sapere infinito, scrive Kierkegaard, è negativo. Eppure il negativo è superiore al positivo. È in questa negatività che consiste l'autentica grandezza dell'uomo. Sono parole di Kierkegaard. Perché essa richiama la natura del suo essere spirituale che attinge l'infinità sul fondamento della negatività. La negatività che c'è nell'esistenza, o più esattamente la negatività del soggetto esistente, che il suo pensiero deve essenzialmente riflettere in forma adeguata, è fondata nella sintesi del soggetto che è uno spirito infinito esistente. Che l'infinità si trovi ad essere nell'esistenza, questa è un'enorme contraddizione. Infatti, se da un lato è vero che l'unità precede la contraddizione, è altrettanto vero che questo non è che il limite del pensare umano. Forzare questo limite in direzione dell'esistenza è recuperare appunto il senso del negativo, della contraddizione, poiché non soltanto con la contraddizione per Kierkegaard comincia l'esistenza, ma la vita stessa è contraddizione. Ed è proprio questa negatività, cioè questa contraddizione irrisolta, che rende possibile il salto della scelta. A questo negativo Kierkegaard dedicherà alcune fra le sue analisi più acute ed originali. Citando Trendelenburg, scrive infatti che i principi supremi non si possono provare che indirettamente, cioè negativamente. Per me, dice, è importante per il salto. E per provare che la cosa più alta non può essere raggiunta che come limite. Nelle figure del sillogismo, la possibilità di concludere negativamente ha il sopravvento sull'affermazione. Dall'analogia e per induzione si può concludere soltanto con un salto. Ogni altra conclusione è essenzialmente identità. Parlare di una unità superiore che debba unificare le contraddizioni assolute, dice Kierkegaard, è un attentato metafisico contro l'etica. Parimenti, tutti codesti discorsi sul positivo e ancora il positivo, codeste affermazioni che gli altri sono spiriti neganti, mentre lui, il discorrente, resta uno spirito positivo, beh, dice, che sciocchezza. Nella stessa misura in cui si ha la positività, si ha anche la negatività. E Kierkegaard critica coloro che considerano il pensare negativo come una malattia della riflessione. Anzi, scrive, i pensatori negativi hanno sempre il vantaggio di avere qualcosa di positivo. Questo, di essere attenti al negativo. Proprio perché il negativo è presente nell'esistenza ed è presente dappertutto. Perché l'esserci, l'esistenza è sempre in divenire. Proprio perciò si ha che l'unica salvezza sta invece nel prestarvi attenzione. Il vero pensatore soggettivo esistenziale è sempre tanto negativo quanto positivo. Egli è al corrente della negatività dell'infinito nell'esistenza. Egli mantiene sempre aperta questa piaga, è già stato citato, della negatività, la quale, dice, è alle volte principio di salvezza. È da questa piaga aperta della negatività che nasce il bisogno di salvezza. Gli altri, dice, lasciano che la piaga si chiuda e diventano positivi, cioè ingannati. Non si deve dimenticare, infatti, osserva Kierkegaard, rilevando proprio in questa mancanza il limite della teoria kantiana sul male radicale, che il paradosso è una categoria. Questo molto, molto bello, io trovo in Kierkegaard. Lui dice: il paradosso è una categoria, non è fuori della categoria, come per Kant, quello che non si può pensare. Tutto in fondo si muove attorno a questo. Finora si è sempre parlato così. Il dire che non si può capire questa o quella cosa non soddisfa la scienza che vuole capire. Ecco lo sbaglio. Si deve dire proprio il contrario. Qualora la scienza umana non voglia riconoscere che vi è qualcosa che essa non può capire, o in modo ancora più preciso, qualcosa di cui essa con chiarezza può capire che non può capire, allora tutto è sconvolto. È pertanto un compito della conoscenza umana, è un compito della conoscenza umana capire che vi sono e quali sono le cose che essa non può capire. La conoscenza umana si dà in generale tanto da fare per capire e capire. Ma se vuole sforzarsi di capire se stessa, deve semplicemente stabilire il paradosso. Il paradosso non è una concessione, ma una categoria, una determinazione ontologica che esprime il rapporto tra uno spirito esistente, conoscente e la verità eterna. Kierkegaard richiama qui l'esempio di Socrate. La sua semplicità, dice, astuta e dialettica, la sua ignoranza, che dovrebbe darci il coraggio di dire: io non riesco a capire nulla della fede, ma io credo. La disgrazia è questo voler comprendere. Socrate, tuttavia, dice Kierkegaard, si è arrestato all'infinito negativo, cioè al punto in cui la riflessione produce l'arresto. Ma in realtà, osserva Kierkegaard, citando Ugo di San Vittore, l'attività della ragione è proprio di conoscere il paradosso in modo negativo, ma non di più. Ed è questa la determinazione dell'assurdo. Ma sarebbe una superficialità il credere che l'assurdo non è un concetto. No, il concetto dell'assurdo è proprio nel comprendere che non si può e non si deve comprendere. È una categoria negativa, una categoria appunto altrettanto dialettica come qualunque principio positivo. Ho quasi finito. Dunque, il concetto, no, è una categoria negativa, ma altrettanto dialettica come qualunque principio positivo. L'assurdo, il paradosso, è costruito in modo che la ragione non può da sola risolverlo e mostrare che non ha senso. No, esso è un segno, l'ha letto già il professor questo Melchiorre, un enigma di sintesi di cui la ragione deve dire è irriducibile, incomprensibile, ma non perciò un non senso. Naturalmente, però, aggiunge Kierkegaard, se si abolisce la fede e si fa sparire tutta questa sfera, forse la ragione presuntuosamente conclude, ergo il paradosso è un non senso. Infatti la fede è il competente riguardo al paradosso. Essa crede il paradosso e ora, per ricordare le parole di Ugo di San Vittore, la ragione può bensì essere determinata ad onorare la fede, approfondendosi la ragione nelle categorie negative del paradosso. È un errore fondamentale credere che non vi siano concetti negativi. I principi più alti di ogni pensare, ovvero le prove di essi, sono negative. La ragione umana ha dei confini, è lì che stanno i concetti negativi. I combattimenti di confine sono negativi, cioè repulsivi. Da lì può nascere il salto. Nella risposta polemica a Theophilus Nicolause, lo pseudonimo del teologo Erikson, Kierkegaard precisa che l'assurdo, appunto, è una categoria. Esso è il criterio negativo del divino e del rapporto con Dio. Una determinazione negativa. l'espressione di una disperazione. Umanamente è l'impossibile, ma la disperazione è il senso e il segno negativo della fede. Perciò si può dire che l'assurdo è il criterio negativo di ciò che è più alto dell'umano sapere e in quanto tale ci getta in maniera negativa nella sfera della fede, impedendo appunto che la fede venga ridotta a sapere. Lo stesso vale per il rapporto fra lo scandalo e la fede. Lo scandalo è il criterio negativo che conferma la differenza qualitativa fra Dio e l'uomo. In tutta la sfera religiosa, dirà Kierkegaard, il positivo è riconoscibile dal negativo. Ed è proprio in questa differenza qualitativa assoluta fra Dio e l'uomo che si fonda la realtà del paradosso essenziale della fede, che è l'infinito nella figura di essere un nulla, di essere semplicemente uomo. Se l'assurdo è la forma negativa più alta del conoscere umano, il paradosso è la forma per la qualità del divino. E il paradosso assoluto è Gesù Cristo, la sintesi paradossale di un Dio e di una povera natura umana. L'umiliazione gli appartiene perciò in modo essenziale. Questo ci terrei a sottolineare. Per Kierkegaard solo nella forma dell'umiliazione noi possiamo accostarci a Cristo. L'umiliazione gli appartiene perciò in modo essenziale. Gesù Cristo è il segno dello scandalo e l'oggetto della fede. Solo nell'eternità egli siede nella gloria. Qui in terra egli deve sempre essere rappresentato nel suo abbassamento, perché ciascuno possa scandalizzarsi e credere. È infatti questo nel mondo, il punto fuori del mondo, che può muovere tutta l'esistenza. Nel paradosso c'è infatti un'inversione tremenda di tutte le categorie umane applicate all'uomo Dio. La vita di Cristo è essenzialmente segno di contraddizione. Egli è Dio, il Salvatore del mondo, eppure vive in povertà e abbassamento, perseguitato, odiato, infine dopo aver subito ogni sorta di tormenti è messo in croce. È Dio e insieme l'abbandonato, abbandonato dagli uomini in vita come nella morte fu abbandonato perfino da Dio. È l'impotente, l'oggetto di scherno, il rinnegato. Sopportare questa doppia prospettiva di credere e insieme di sapere che il contenuto della fede, visto dal lato della ragione, è il negativo, è l'assurdo, questa è la tensione della vita della fede in cui ci si deve mantenere. Ho finito, è una pagina. Ognuno deve portare in sé questa duplicità di comprendere che il cristianesimo è contrario alla ragione e tuttavia credere. Il criterio distintivo del cristianesimo è infatti il paradosso assoluto. Appena una cosiddetta speculazione cristiana, sono parole di Kierkegaard, toglie il paradosso e trasforma questa determinazione in un momento dialettico, tutte le sfere sono confuse. Poiché Cristo non è venuto a portare un accrescimento di sapere, ma la salvezza. Di modo che la fede è in direzione della volontà, della personalità, non in direzione dell'intellettualità. In direzione dell'esistere e non della speculazione e del ragionamento. Il cristianesimo non si rapporta quindi né al pensiero né al dubbio, ma alla volontà e all'obbedienza. Tu devi credere. È una trasformazione qualitativa, una trasformazione di tutto il carattere nel tempo. È molto bello questo, dice, com'è qualitativamente la trasformazione dal non essere all'essere qual è la nascita. Non c'è niente, nessuna pensabilità in questo miracolo, dal non essere all'essere della nascita. Per questo la fede è una categoria dialettica, essa comporta cioè una reduplicazione etica nell'esistenza, un raddoppiamento dialettico. È diventare nell'esistenza ciò che si crede, poiché diventare la cosa amata è per l'appunto l'unico modo serio di comprendere. Si comprende qualcosa soltanto in quanto la si diventa. È la riduplicazione in te, dice Kierkegaard, in me, in lui. Cioè io non conosco in verità se non quando essa diventa vita in me. È l'esistere nella dottrina, come conformità al modello, come contemporaneità con Cristo. Il cristianesimo è infatti essenzialmente un credere, un'imitazione, e può essere comunicato soltanto da testimoni, cioè da coloro che esprimono nell'esistenza ciò che dicono, lo portano nella realtà, cioè coloro la cui esistenza è la trasparenza della dottrina. Se l'autorità divina della rivelazione e l'incarnazione di Cristo nella storia restano il fondamento, il ciò oggettivo e irrinunciabile della fede, è il come soggettivo della passione infinita e della responsabilità individuale, è l'io credo, altrettanto appunto irrinunciabile. Il come è il salto che fonda il passaggio qualitativo dal fatto storico alla fede nella salvezza eterna. Così che nella reduplicazione dialettica della libertà e della fede, il momento soggettivo diventa a sua volta fondante e oggettivo. Kierkegaard scrive: il momento più oggettivo nella professione di fede comincia così, io credo. È lo stesso tema analogo della verità, della soggettività e la verità. Perciò il cristianesimo del Nuovo Testamento, dirà Kierkegaard, è la ferita più profonda che si possa inferire all'uomo, la ferita più tremenda, fatta apposta per metterlo in collisione con tutto. E per concludere, vorrei concludere con una breve invocazione che Kierkegaard pone all'inizio dell'esercizio del cristianesimo. Lui disse sempre e si qualificò fino alla fine come scrittore religioso. Io sono e sono stato uno scrittore religioso, l'ha rivendicato fino alla fine. E nelle sue opere, soprattutto negli scritti edificanti, sono disseminati di preghiere, ma anche nell'opera per eccellenza sul paradosso che è l'esercizio del cristianesimo, ci sono varie preghiere. Leggo solo l'inizio: che possiamo vederti, Signore Gesù Cristo, come sei e come fosti e come sarai fino al tuo ritorno nella gloria. Il segno dello scandalo e l'oggetto della fede, l'uomo umile e tuttavia salvatore e redentore dell'umanità, venuto sulla terra per amore, per cercare quelli che erano perduti, per soffrire e per morire. Che noi possiamo vederti così, ma senza doverci scandalizzare in te. Ringraziamo la professoressa Gianna Tiempo. All'inizio, nella sua umiltà, temeva di sfigurare di fronte agli altri, ma ci siamo resi conto che altro che sfigurare, e ci siamo resi conto di come conosca Kierkegaard e di quanto affascinante e illuminante sia la sua interpretazione. Quindi grazie veramente di cuore.